Parte seconda. Dove andiamo? E da qui, dove possiamo andare? Capitolo 9. Dall'antichità ai tempi moderni, verso un nuovo scenario. Non suscita particolare stupore la mole dei problemi, delle tragedie personali e sociali, delle relazioni disfunzionali che ci capita di intrecciare, del dolore che provochiamo a noi medesimi e agli altri. Fa invece meraviglia considerando il carico di distorsioni, informazioni sbagliate, condizionamenti negativi e inesattezze con cui abbiamo tanto a lungo convissuto che l'umanità sia riuscita comunque ad andare avanti. Seppur vacillando sotto questo fardello, siamo riusciti ad amarci l'un l'altro, questo è un mirabile risultato della capacità della specie umana e della tenacia di cui dà prova di ricercare il piacere invece che il dolore, di accudire invece di conquistare e soprattutto di connettersi agli altri e a tutto quanto è amorevole e creativo in noi stessi e nel mondo. Questa capacità umana, questa tenacia, fanno nascere in noi la speranza realistica di riuscire, in questo punto critico della storia umana, a creare un sistema sociale più equilibrato e meno insensato, in cui la violenza e il predominio, insieme con il disastro in cui versa la vita sessuale e spirituale, non siano più accettati solo perché è così che vanno le cose. E questa speranza è oggi alimentata anche dal fatto che è prevalso nella storia moderna l'elemento di lotta di liberazione dalla schiavitù della dominanza, da tradizioni millenarie di coercizione violenta, di repressione disumana, di spargimenti di sangue senza fine. Nei prossimi capitoli prenderemo in esame questa lotta. Vedremo come, quasi in un batter di ciglio, perché altro non è il trascorrere di qualche secolo nella storia della nostra specie, si sono verificati incredibili cambiamenti complessivi nel modo di percepire la vita, dalla sessualità alla spiritualità. A questi cambiamenti si sono accompagnati cambiamenti altrettanto drastici nella struttura della famiglia, del governo e di altre istituzioni sociali. Infatti, negli ultimi 300 anni, nonostante la forte resistenza e le regressioni intermittenti, i dati della dominanza, la violenza e la repressione sono stati sfidati con successo sempre più allargato. E ora che ci avviamo al XXI secolo e a un nuovo millennio, questa lotta epocale per il nostro futuro sta arrivando a una fase risolutiva. Nella parte prima abbiamo visto che il modello della partnership e quello della dominanza sono entrambi possibilità aperte alla nostra specie, che anche tra i cosiddetti scimpanzé comuni e nani, che sono i nostri parenti più stretti tra i primati, si rilevano differenze significative nell'organizzazione sociale. Abbiamo visto che la direzione originaria della nostra evoluzione culturale era più della partnership, il che influenzò profondamente la costruzione sociale di sessualità e spiritualità. Ma abbiamo poi visto che in un'epoca di grande caos e disorganizzazione si verificò nel corso della preistoria un importante cambiamento culturale. D'ora in avanti osserveremo il poderoso movimento che ora si prefigge di capovolgere quel cambiamento e le forti resistenze che vi si oppongono. Continueremo a esaminare i vari modi in cui una società può utilizzare le due leve fondamentali della motivazione umana, il dolore e il piacere. Ancora rivolgeremo la nostra attenzione soprattutto al ruolo centrale che gli stereotipi tradizionali del sesso e del genere svolgono nell'intrecciare, tanto da renderli interdipendenti, i sistemi di dominazione politica, economica, religiosa e militare, che pongono una nazione al di sopra di un'altra nazione, una razza al di sopra di un'altra razza. Ma per molti versi il nostro percorso sarà molto diverso da questa seconda e ultima parte del viaggio. Finora ci siamo spostati rapidamente attraverso un lunghissimo arco di tempo. È stato come viaggiare lungo un fiume, navigando prima in una direzione e poi, dopo una secca virata, in un'altra. Ora, per continuare nell'analogia, il nostro compito è di preparare un nuovo alveo al fiume, affinché ci porti in direzione del modello della partnership, invece che in quello della dominanza. Nel frattempo dovremo continuare a navigare affrontando rapide e estremamente turbolente, irte di scogli aguzzi, con pericolose secche, tra correnti forti e correnti contrarie. Guardando questo conflitto di correnti, osserveremo da vicino i nostri rapporti intimi, non solamente i nostri rapporti sessuali, ma i rapporti tra i bambini e coloro che ne sono responsabili, perché attraverso queste relazioni basilari, che comportano il contatto corporeo che acquisiamo, molte delle tessere che andranno a formare il mosaico dei rapporti, improntati al modello della partnership o a quello della dominanza nella nostra vita sessuale e non. Guarderemo anche con occhi nuovi gli sviluppi contemporanei, rilevabili non solo nella sessualità e nella spiritualità, ma anche nella politica, nell'economia, nella teologia, nell'educazione, nella comunicazione e in altri importanti aspetti della nostra vita. E amplieremo ulteriormente la teoria della trasformazione culturale, osservando come, sul più basilare livello corporeo, il dolore e la minaccia del dolore siano intrinsechi a un modello della dominanza nell'organizzazione sociale e ideologica. Ma prima di proseguire, desidero innanzitutto delineare lo scenario di quanto vi si va a cominciare. Vorrei dire qualche parola sul titolo di questo libro, sul modo in cui è presa a svilupparsi a partire dal mutare della mia consapevolezza e del modo in cui si connette al fatto che sia il piacere sia il sacro trovano definizioni assai diverse in società prevalentemente orientate sul modello della partnership piuttosto che su quello della dominanza. Desidero discutere brevemente almeno parte di quanto andiamo apprendendo sulla biologia, sulla chimica dell'amore e sulla natura della consapevolezza. E desidero collocare quanto sta accadendo oggi in un più ampio contesto evoluzionistico, perché mi sono resa conto che al di sotto del grande fermento di adesso c'è un impasse che blocca l'evoluzione culturale, che può essere superata soltanto con cambiamenti fondamentali nel modo di costruire i rapporti umani, comprese le nostre più intime relazioni personali. Desidero inoltre parlare di una cosa tuttora per lo più ignorata nelle diatribe sul cambiamento personale e sociale, il corpo umano. Perché la trasformazione sociale e personale ruota essenzialmente attorno a questioni che coinvolgono direttamente il corpo umano? Ruota attorno a come immaginiamo i corpi, il nostro e quello degli altri. Ruota attorno a chi dovrebbe avere il potere di definire tali immagini. Ruota attorno ai modi in cui siamo toccati e tocchiamo i corpi degli altri. E infine, ruota attorno ai cambiamenti fondamentali nella consapevolezza su come due tipi diversissimi di potere, il potere di infliggere dolore al corpo e quello di dargli piacere, possono essere costruiti socialmente e quindi quale tipo di potere è più apprezzato e premiato e quale svalutato e non premiato. La politica del corpo. Uno dei cambiamenti più sconvolgenti verificatisi nella mia consapevolezza durante la scrittura di questo libro è avvenuto dopo che mi sono resa conto assai vivamente che il modo in cui immaginiamo il corpo umano ha un ruolo fondamentale nel modo in cui immaginiamo il mondo e ciò a sua volta ha impatto diretto sul modo in cui percepiamo noi stessi in rapporto a entrambi. Conoscevo da tempo importanti scritti femministi che direttamente o indirettamente affrontano queste questioni, dalla Sexual Politics, la politica del sesso di Kate Millett, e Nato di donna di Adrienne Rich, a opere più recenti, quali Touching Our Strength di Carter Hayward e Embodied Love di Paula Cooey, Sharon Farmer e Mary Ellen Ross. Ma cominciamo a vedere più vividamente che mai, da una prospettiva nuova, che il modo in cui il sesso, il potere e l'amore vengono concettualizzati in un dato tempo e luogo non può essere compreso e tantomeno mutato se non si comprende anche, non si cambia, il modo in cui immaginiamo il nostro corpo in quanto uomini e donne. Cominciai pure a capire, molto più profondamente di prima, che il modo in cui consideriamo il nostro corpo, quello che con il nostro corpo facciamo e chi ha il potere di decidere entrambe le cose sono fatti intensamente politici. In effetti, nell'ambito dell'attuale lotta per lasciarsi alle spalle modelli allignati di dominazione e violenza, si tratta di questioni politiche di primaria importanza. In effetti, nell'ambito dell'attuale lotta per lasciarsi alle spalle modelli allignati di dominazione e violenza, si tratta di questioni politiche di primaria importanza. Il modo in cui immaginiamo le relazioni tra i corpi è particolarmente importante, il modo in cui esperiamo queste relazioni nel nostro stesso corpo non sono una semplice metafora della politica nel suo senso più specifico e basilare di maniera di definire ed esercitare il potere. È il modo in cui all'inizio apprendiamo inconsciamente e di continuo rimettiamo in atto, è il modo in cui il nostro corpo umano deve presumibilmente correlarsi in tutte le relazioni, in entrambe le sfere tradizionalmente definite del pubblico e del privato. Se in principio nelle relazioni intime genitore-figlio e poi nei rapporti sessuali intimi siamo condizionati ad accettare come normali predominio e sottomissione, questi modelli inconsciamente influenzeranno tutte le nostre relazioni. Per contro, se in principio nelle nostre relazioni genitore-figlio e poi nei rapporti sessuali apprendiamo e costantemente pratichiamo il rispetto reciproco e la cura, ci risulterà assai difficile adattarci a un sistema sociale di gerarchie dominanti fondate sulla forza e la paura. Ecco perché la riconcettualizzazione del corpo femminile, da simbolo di potere sessuale e spirituale a oggetto sotto il controllo degli uomini, necessariamente rientrò nel passaggio preistorico a un'organizzazione sociale della dominanza. Questa riconcettualizzazione del corpo femminile quale oggetto che deve essere controllato da qualcuno che sta al di fuori di quel corpo ebbe alcuni importanti esiti. Per certo, giustificò il predominio degli uomini sul corpo delle donne e il suo relativo sfruttamento. Essere uno strumento per la procreazione e/o la ricreazione, ovvero rendere servizi agli uomini e lavorare nelle loro case. Inoltre, gradualmente, indusse le donne a immaginare il proprio corpo dal punto di vista maschile, modellato dai dettami di un sistema della dominanza. Infatti, se l'immagine specifica variava da cultura a cultura e poteva essere pesante o sottile, o prevedere un collo allungato, un piede storpiato o genitali mutilati, era comunque un'immagine che innanzitutto si conformava non tanto ai desideri e ai bisogni delle donne, quanto a ciò che gli uomini al potere definivano desiderabile in una donna. Per giunta, in questo nuovo ordine sociale, le donne stesse appresero gradualmente a controllare il proprio corpo e quello delle figlie affinché si conformassero alle esigenze e ai gusti maschili. Un'eredità con la quale ci scontriamo oggi, come provano l'anoressia, la bulimia o altri disordini dell'alimentazione. Nell'insieme, frutto dei tentativi coatti delle donne di rimodellare il loro corpo secondo dettami esteriori, senza tenere conto di quanta sofferenza comportano. Tuttavia, non solo le donne, ma anche gli uomini furono profondamente influenzati da questa visione strumentale e determinata dall'esterno del corpo umano. Accadde infatti che i corpi di tutte le donne e della maggior parte degli uomini finirono con l'essere considerati in base ai bisogni e desideri di coloro dotati del massimo potere di fare del male e perciò di controllare i corpi degli altri. Come abbiamo visto, era questa la visione prevalente nelle società schiaviste dell'antichità in Occidente, laddove il corpo di tutte le donne e della maggior parte degli uomini, gli schiavi, era considerato una proprietà su cui un gruppo ristretto di uomini aveva il potere assoluto di vita e di morte. Inoltre, in queste antiche società assai bellicose, la massa degli uomini era considerata uno strumento a disposizione di questa elite di uomini, da usare nelle lotte di potere in cui vinceva colui che riusciva a infliggere la massima sofferenza ai corpi degli altri. Altro aspetto ancora dell'eredità del dominante con cui tuttora ci troviamo a combattere. Ecco dunque perché il corpo maschile, muscoloso, robusto, corazzato del guerriero celebrato nell'epica greca, insieme con una psiche maschile, parimenti corazzata, divenne la norma ideale per il maschio, il quale, come ricompensa per aver offerto in sacrificio il proprio corpo, riceveva il corpo delle donne fatte prigioniere, come narrano i poemi omerici e la Bibbia. Il concetto del corpo femminile come proprietà maschile influenzò profondamente anche la costruzione sociale della sessualità, sia femminile sia maschile. Perché il fatto che un corpo esistesse soltanto per servire l'altro, dargli premure, piacere e prole, forniva un'efficace giustificazione alle gerarchizzazioni, oltre a imporre una particolare visione di come i corpi delle donne e degli uomini dovevano correlarsi nei rapporti più intimi. E questa visione, contro la quale oggi pure lottiamo, era che sia le donne, sia il sesso naturalmente, devono essere controllati dagli uomini. A sua volta ciò comportò un certo numero di meccanismi intesi a mantenere la superiorità del maschio sulla femmina. Uno di essi, già intravisto, è lo svilimento del sesso della donna. Un altro, che esamineremo abbastanza approfonditamente, è l'erotizzazione del predominio della violenza, un meccanismo di grande rilevanza nell'attuale profusione di immagini pornografiche di uomini che incatenano, frustano, feriscono e in vario modo procurano sofferenza al corpo della donna. Le diatribe su queste immagini si sono in gran parte concentrate sulla possibilità o meno che incitino direttamente a violenze criminali contro le donne o semplicemente tolgano a chi perpetua questi crimini la consapevolezza di star provocando del dolore, creando al contempo un'atmosfera di tolleranza nei confronti di un simile comportamento. Ma se lo si considera, tenendo conto della tensione esistente fra il crescente movimento verso la partnership e la forte resistenza opposta dai sistemi della dominanza, il proliferare di queste immagini può essere considerato una risposta alla spinta verso la partnership da parte di un sistema che fondamentalmente si mantiene infliggendo o minacciando di infliggere dolore ai corpi di altri. Queste immagini del corpo umano e di come due corpi umani si correlano piacevolmente in modi che sono fisicamente e o psicologicamente dolorosi per uno dei due, illustrano a tinte forti un'organizzazione sociale in cui il massimo potere è il potere simboleggiato dalla spada, il potere di provocare dolore e di distruggere. Per giunta, ci condizionano a immaginare inconsciamente le relazioni umane nei termini di un dominante e di un dominato. Non si vuole con questo dire che un modello dominante e dominato della sessualità è l'unico modo in cui donne e uomini sono indotti ad accettare, talvolta persino di buon grado, i controlli repressivi. Come vedremo, molti sono i modi di condizionarci socialmente, allo scopo, riprendendo le parole dell'ex gesuita Don Henlon Johnson, di diventare sensualmente e non soltanto attitudinalmente obbedienti ai nostri superiori. Ci sono anche i modelli inculcati fin dall'infanzia, mediante le pratiche educative autoritarie e dolorose, che esamineremo nel prossimo capitolo. In gran parte, l'ascetismo religioso che Johnson collega al sadomasochismo sessuale è anch'esso un modo efficace di abituare il corpo alla dominanza e alla sottomissione. E poi c'è la minaccia incombente, in talune religioni della dominanza, della sofferenza eterna per il corpo. Il dolore, il piacere e il sacro. Prima di proseguire, desidero reiterare una mia precedente affermazione. Sotto la copertura di insegnamenti e miti del dominante, nel cristianesimo, come nella maggior parte delle altre grandi religioni, alberga un importante nucleo di partnership. In effetti, è questo nucleo che dà conto del costante richiamo di queste fedi per molte donne e molti uomini. Tuttavia, e su questo torneremo per un esame più approfondito, gli elementi della dominanza contenuti in queste religioni sono serviti e continuano a servire come potenti strumenti di condizionamento, al fine di far accettare a donne e uomini un'autorità ingiusta e addirittura santificarla. Inoltre, come osserva Johnson, si sono avvalsi di metodi che hanno un impatto diretto su questioni basilari come il nostro corpo, il dolore e il piacere. Per la verità, una delle differenze più impressionanti tra le immagini sacre delle società arcaiche, maggiormente orientate sulla partnership, e molte delle nostre immagini del sacro, riguarda proprio le questioni basilari del corpo, del dolore e del piacere. Perché se ci fermiamo a guardare le immagini sacre, tenendo presente l'eredità della dominanza, vediamo che contemplano ben poco il dono del piacere ed esaltano invece l'inflizione del dolore. Che si tratti di lotte tra divinità olimpiche, cruente ostilità tra dei e dei induisti e il martirio di santi cristiani. La sacralizzazione del dolore, invece che del piacere, mostra tutto il suo significato da una prospettiva politica, in quanto queste immagini si formano in società in cui il massimo potere è quello di dominare e distruggere. E si comprende che in tali società gli individui siano stati spesso condizionati ad associare il piacere all'egoismo e all'insensibilità, e anche, come analizzerò a fondo, al predominio o alla sottomissione al predominio, e in particolare nel caso del piacere sessuale, al sadismo e al masochismo, al fare o al farsi del male. Tutto ciò mi porta direttamente al titolo di questo libro, Il piacere è sacro. A tutta prima può sembrare allarmante, persino sacrilego, ma proprio per questo l'ho scelto. O più esattamente, proprio perché la mia consapevolezza del piacere del sacro si modificò profondamente mentre scrivevo questo libro. L'espressione il piacere è sacro si presentò come un modo di concettualizzare sia il piacere sia il sacro, molto diverso da tutto quanto ci hanno insegnato. Infatti, proprio come la costruzione sociale del corpo e del potere differisce profondamente nelle società sul modello della dominanza o della partnership, tanto che in queste ultime il simbolo più importante del potere è il calice che dà la vita e illumina, mentre nelle prime è la spada che minaccia la vita e la distrugge. Altrettanto succede con la costruzione sociale del piacere del sacro. Pertanto, usando il termine piacere sacro, non intendo quel tipo di piacere santificato che nel Medioevo uomini e donne cristiani traevano dalle torture e dalle violenze autoinflitte. Per certo, non si tratta del piacere che, a detta di Freud, gli uomini traggono dal rapporto sessuale quando umiliano e sviliscono le donne. Freud affermava, infatti, non appena l'oggetto sessuale soddisfa la condizione di essere degradato, la sensazione sensuale può avere libero gioco e possono svilupparsi una considerevole capacità sessuale e un alto grado di piacere. E neppure si tratta del piacere che alla gente si è insegnato a trarre dallo scherno per quanti cadono, ricevono torte in faccia o sono diversamente umiliati o feriti. Non è nemmeno il piacere che dovremmo teoricamente trarre dalle vittorie in guerra, come quando i cristiani o i musulmani celebravano le stragi degli infedeli trucidati in massa durante le sante crociate, o ai tempi nostri, dopo la guerra del Golfo, quando negli Stati Uniti esplose una sorta di euforia, in cui ben poco spazio trovava il ricordo delle migliaia di uomini, donne e bambini iracheni mutilati e uccisi. E non è neppure la visione del sacro trasmessa da migliaia di trasmissioni religiose della crudeltà del sacrificio, del corpo umano trafitto, crocifisso, bruciato, impalato, torturato in mille odiosi modi, che popolano ancora oggi i nostri musei e le nostre chiese. Ma desidero anche dire che la mia consapevolezza del fatto che ci hanno insegnato a considerare il piacere e il sacro in modi assai strani non è nata soltanto perché scrivevo questo libro. È maturata attraverso un lentissimo risveglio, qualcosa di molto simile a quello che i mistici hanno descritto come un sollevarsi dei veli, uno dopo l'altro, che nascondevano ciò che chiamiamo spirituale o divino. Soltanto che quanto ho trovato nel corso del mio itinerario spirituale, una ricerca tortuosa e gioiosa insieme, che mi portò sulla cima isolata di una montagna, ma a un modo nuovo di considerare la mia vita, era molto diverso dalle mie aspettative. Cominciai a riconoscere che i momenti più importanti e più profondamente sentiti, i momenti in cui con la massima intensità avevo provato l'inesprimibile timore reverenziale e la meraviglia per il mistero della vita, erano stati possibili non grazie al mio condizionamento sociale ad associare il sacro con un'entità onnipotente e giudicante, ma nonostante quel condizionamento. Cominciai inoltre ad accorgermi che lo sviluppo spirituale non è qualcosa di diverso e di separato dai piaceri terreni, quali l'estasi sessuale o una carezza amorevole di un bambino o di un amante, non importa. Al contrario, pian piano cominciai a comprendere che queste esperienze si trovavano al centro del mio sviluppo spirituale e cominciai anche a comprendere, non semplicemente a livello della teoria, ma anche dell'esperienza, l'emergere del mio bisogno di vederci chiaro in tutto ciò che mi era stato insegnato sul piacere e sul sacro. Comunque, solamente scrivendo questo libro, cominciai a tirar fuori, a selezionare queste cose e, fatto ancora più importante, a ricomporre i vari pezzi scoperti lungo la via costituenti, nel loro insieme, una sacralità molto diversa, in sintonia con il modello della partnership e non della dominanza. È una sacralità che è di questo mondo e non di un regno disincarnato e ultraterreno. Una sacralità che deriva più dal rispetto per la vita che non da che cosa accade dopo la morte o prima della nascita. È una sacralità che non stabilisce una separazione netta tra di noi e quel che chiamiamo il divino. Soprattutto una sacralità che non considera il corporeo o carnale inferiore, quindi privo di importanza, bensì parte essenziale di quanto fondamentalmente è santo. Pertanto, quando parlo di una spiritualità della partnership e non della dominanza, lo faccio in questo senso olistico della parola, ossia quanto accade su questo pianeta e nel nostro o nell'altrui corpo non è separato dal cosiddetto io superiore. Ecco perché sono di così grande rilevanza le opere di teologi quali Carol Christ, Matthew Fox, Elizabeth Dawson Gray e Carter Hayward, incentrati sull'immanenza della spiritualità. Credo infatti che la spiritualità sia insieme immanente e trascendente e che l'integrazione dei due aspetti sia il nucleo della spiritualità, i cui frammenti vanno emergendo quale parte della lotta in corso per passare da un mondo della dominanza a un mondo della partnership. Questa spiritualità della partnership esprimerà insieme il nostro bisogno umano di connessione in senso corporeo, come nell'unione fisica con la persona amata, e il nostro struggimento per l'intimità con quello che chiamiamo il divino. Invece di presentare la grande sofferenza come via per una più alta consapevolezza e persino come l'attributo essenziale di un salvatore divino, si sforzerà di mostrare come possiamo raggiungere una più alta consapevolezza e quindi l'unione con il divino attraverso la grande gioia che è concessa di sperimentare nell'amare e nell'essere amati soltanto a noi esseri umani in modo unico e miracoloso. Ma ripetiamo, non sarà amore in astratto, sarà infatti una spiritualità derivante da un senso di collegamento piuttosto che di distacco, e sarà quindi anche una spiritualità in cui l'amore non è ultraterreno, ma di questo mondo. L'umano struggimento per la connessione. A mio avviso, una delle grandi tragedie della religione occidentale, quale noi l'abbiamo conosciuta, è stata la sua visione a compartimenti dell'esperienza umana, e in particolare l'aver posto l'amore disincarnato o spirituale al di sopra dell'amore incarnato o carnale. Come abbiamo visto, questa visione dell'esperienza umana non è propria all'Occidente soltanto, e per certo non appartiene solo alla religione. Per esempio, per il buon senso comune, parte del retaggio lasciato dai filosofi greci e dai sapienti cristiani del Medioevo, le sensazioni sessuali sono di ordine inferiore. L'amore alberga nel cuore e quella che oggi chiamiamo consapevolezza superiore è connessa soltanto agli stati mentali. In effetti, le ricerche scientifiche contemporanee indicano che la sede dell'istinto sessuale non sta nei genitali, ma nel cervello. Anche gli esperimenti condotti sui ratti mostrano che la stimolazione elettrica di alcune regioni del cervello provocano direttamente l'erezione e/o l'eiaculazione in assenza di qualsiasi stimolazione genitale. E lo confermano non soltanto gli studi scientifici, ma anche le nostre esperienze e osservazioni quotidiane. Sappiamo benissimo che a produrre l'eccitazione sessuale possono essere delle immagini o perfino dei pensieri. L'attrazione sessuale che una donna o un uomo provano per date persone, con tutte le variazioni idiosincratiche, dipende ampiamente da qualcosa che accade nella mente. È il modo in cui interpretiamo gli stati di eccitazione sessuale ed emotiva e le azioni che ne derivano o meno come conseguenza immediata, sono ampiamente determinati da questo. Da quanto abbiamo appreso a pensare e a sentire e non da pulsioni fisiche, meccaniche o da istinti. Anche l'emozione dell'amore coinvolge il cervello. Infatti, tutti gli affetti e tutte le sensazioni che siano associate al sesso, alla spiritualità o all'amore negli esseri umani sono mediati da quanto gli psicologi chiamano cognizione o pensiero, elaborati dal nostro cervello. Ma siccome il cervello fa parte del corpo, è nel corpo che fisicamente sperimentiamo tutti gli effetti e le sensazioni, indipendentemente dall'etichetta di superiori o inferiori a essi applicata. Pertanto, è quanto accade nel corpo a produrre stati spirituali o estatici. Gli individui che esprimono stati di coscienza superiori, come guru, spesso praticano severi esercizi fisici e sono in grado di sedere per ore in posizioni che la maggior parte di noi riuscirebbe a mantenere per pochi minuti soltanto. Questa dimensione fisica degli stati spirituali viene documentata da una sempre più ricca letteratura scientifica su quelli che i ricercatori chiamano stati alterati di coscienza. Gli esperimenti condotti mostrano che gli stati meditativi o simili a trance comportano cambiamenti misurabili nell'attività elettrica del cervello o onde cerebrali registrati dalle elettroencefalografie. Fatto particolarmente interessante e attinente a quanto andiamo esaminando, l'orgasmo sessuale viene sempre più profondamente riconosciuto quale stato alterato della coscienza. Quale, infatti, è? Come scrive in The Psychobiology of Consciousness Julian Davidson, sebbene immense siano le differenze individuali, come nelle esperienze di altri stati alterati di coscienza, tutti gli orgasmi condividono alcuni dei criteri rilevati negli stati alterati di coscienza dichiarati. Comprendono cambiamenti nel senso dello spazio, del tempo, dell'identità, nonché forti emozioni e grandi cambiamenti nell'attività motoria. Davidson osserva anche che l'orgasmo è stato ampiamente usato per indurre stati mistici. Non sorprende dunque che, come abbiamo visto nella parte prima, i mistici abbiano spesso descritto le loro esperienze ricorrendo al linguaggio erotico. O che la parola comune e centrale nel linguaggio della passione sessuale e dell'illuminazione spirituale sia l'amore. Questo tema comune dell'amore nella letteratura e nell'esperienza sia della sessualità sia della spiritualità non è casuale. Riflette un nesso sotterraneo di fondo che le civiltà preistoriche sembrano aver intuito e che la scienza moderna comincia a riscoprire. Perché mentre ci hanno insegnato che la sessualità umana, che è tensione verso la connessione o l'intimità, l'emozione dell'amore, ancora tensione verso la connessione o l'intimità, e la tensione spirituale verso l'unione o l'intimità con quello che chiamiamo il divino, sono tra loro completamente diverse, ai poli opposti, in realtà scaturiscono tutte dallo stesso bisogno umano profondamente radicato, il desiderio umano, possente e struggente, di connessione. Poiché questo desiderio è tanto potente e persistente nella nostra specie, credo che abbia una base biologica. Questo non è per dire che solo gli esseri umani hanno una forte pulsione verso la connessione. In realtà questa pulsione è un tema evolutivo ricorrente. Le più antiche radici risalgono a miliardi di anni fa, all'unione simbiotica di singole cellule nei primi organismi pluricellulari, che la biologa Lynn Margulis argutamente chiamò la prima partnership tra forme di vita sul nostro pianeta. Nelle colonie di insetti, negli stormi di uccelli, nei branchi di pesci e nelle mandrie di mammiferi, questo bisogno di connessione si esprime in quello che chiamiamo l'istinto gregario, che accresce le possibilità di sopravvivenza, perché è molto più sicuro vivere in tanti, tutti insieme. In forme di vita tra loro tanto differenti come le coccinelle, i gattini, le scimmie e gli esseri umani, ritroviamo evidentissimo il bisogno della connessione fisica mediante il tatto, che è parte integrante della sopravvivenza della specie, che si riproducono mediante accoppiamento sessuale. In particolare nei mammiferi, il contatto tattile è fondamentale per la sopravvivenza dei cuccioli, che morirebbero senza la protezione e le cure degli adulti. Ma sebbene il desiderio di connessione non sia un'esclusiva della nostra specie, è comunque particolarmente sviluppato negli esseri umani. Ciò si deve ad alcuni tratti peculiari, tra cui in particolare il periodo di dipendenza molto più prolungato per i piccoli dell'uomo, la sessualità non stagionale della femmina umana, le superiori capacità mentali dell'umanità, che tanta parte hanno nel fenomeno che chiamiamo coscienza. Viste da questa più ampia prospettiva, diventa evidente che, contrariamente alle opinioni prevalenti, le sviluppatissime capacità mentali dell'umanità non sono di un ordine evolutivo molto diverso dalle sviluppatissime capacità e dai bisogni di connessione femmina-maschio e adulto-bambino. Si tratta piuttosto di sviluppi evolutivi tra loro strettamente interconnessi, sviluppi che si avviarono tutti insieme alla comparsa della nostra specie. Più specificatamente, sono gli sviluppi evolutivi che insieme diedero alla nostra specie il potenziale di due caratteristiche squisitamente umane interconnesse. La prima è il fenomeno che chiamiamo coscienza superiore. La seconda è quel complesso di affetti e comportamenti che nel regno della spiritualità e della sessualità chiamiamo amore.